esistono le colonie. Non bisogna andare tanto lontano, basta passare la perfida Albione e trovare l'Irlanda del Nord, dove ancora oggi i combattenti perdono la vita e i prigionieri con lo sciopero della fame protestano contro l'infamia del governo britannico. Questa è Belfast.